2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it per comunicare con noi, anche Facebook e Twitter. Ci occuperemo di smartphone, di fotocamere, di intelligenza artificiale, anche di spazio, ma inizieremo tra poco parlando di sicurezza. Allora, praticamente tutte le settimane ci sono decine di notizie che riguardano problemi di security, di cyber security, virus, malware, falle di sicurezza in vari sistemi. Ovviamente non possiamo tutte le settimane fare la lista di quello che sta accadendo, ma l'attenzione verso la sicurezza deve aumentare. Ne abbiamo parlato anche recentemente a 2024, ma questa settimana c'è stata svelata una falla di sicurezza relativa al Wi-Fi, e se c'è una cosa popolare sono i sistemi Wi-Fi. In molte case degli italiani, in uffici, in ambito pubblico viene utilizzata questa tecnologia. Di questo parleremo tra poco, adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Iniziamo da una applicazione che è stata creata da Agicom, un'applicazione per ora solo per sistemi Android, per visualizzare su smartphone lo sviluppo della rete a banda larga fissa e mobile in Italia. Si chiama BBMap, quindi Broadband Map, BBMap, ed è possibile vedere la situazione attuale, i programmi di copertura nei prossimi anni e anche eventualmente segnalare errori. Ci sono vari servizi e varie app che permettono di condividere la nostra posizione geografica su una mappa, anche in tempo reale con altri utenti. Ci sono alcune applicazioni dedicate proprio a questo, ma da questa settimana anche WhatsApp ha aggiunto questa funzionalità che va attivata nel menu alla voce condividi la posizione. In questo modo si possono seguire gli spostamenti delle persone che hanno condiviso la posizione. Alcuni si domandano se era proprio necessario, ma visto che per alcuni c'è questa curiosità, c'è questo aggiornamento che è stato fatto da WhatsApp questa settimana. Ancora non tutti i sistemi sono stati aggiornati, quindi magari la vostra applicazione verrà aggiornata nei prossimi giorni. Parliamo di ricarica elettrica, la seguiamo ogni tanto quando ci sono delle notizie importanti, perché si tratta della base sulla quale puoi creare lo sviluppo dei veicoli a propulsione elettrica. Allora, è stata inaugurata a Cormano, che in provincia di Milano, vicino a Milano, la prima stazione di ricarica veloce per veicoli elettrici, che fa parte di un programma europeo che punta ad installare 200 colonnine nei prossimi 3 anni, 180 in Italia, 20 in Austria. Il coordinatore è Enel, che ne installerà 30 entro il mese di ottobre. Siamo solo agli inizi di questa evoluzione. Queste sono la notizia importante, perché queste sono colonnine particolari, cioè a ricarica veloce, perché il nuovo trend, la nuova sfida è realizzare colonnine che in poche decine di minuti, stiamo parlando di 20 minuti, 30 minuti, che sono da un certo punto di vista ancora molto, ma riescono a ricaricare quasi al 100% le batterie di un'automobile. Si cominciano a delineare i dettagli dell'asta che il prossimo anno assegnerà le frequenze per la tecnologia 5G, la telefonia mobile 5G, e soprattutto noi parliamo di telefonia, ma in realtà c'è tutto un ecosistema che si creerà legato alla Internet degli oggetti grazie alla connettività 5G. Allora, alcune frequenze saranno utilizzabili da subito, quindi possiamo aspettarci, immaginarci che alcuni servizi, potremmo definirli marginali, possono partire già dal 2019, dal 2020, ma ci sono invece altre frequenze che vengono considerate le più pregiate, che sono attualmente occupate dai segnali televisivi del digitale terrestre, quindi le TV dovranno liberarle, ma verranno liberate non prima del 2022, quindi lo sviluppo di gran parte dei servizi 5G avverrà appunto non prima del 2022 o forse addirittura anche al 2023. Vedremo poi se si riuscirà ad accelerare questo processo di liberazione delle frequenze per la nuova connettività 5G. poco parleremo di smartphone, in particolare di intelligenza artificiale a bordo degli smartphone e anche di fotocamere. La scoperta di una falla nel sistema WPA2, che protegge l'accesso alle reti Wi-Fi, ha messo in allarme gli esperti di sicurezza in tutto il mondo e non solo gli esperti di sicurezza. Allora, questo WPA2, probabilmente alcuni di voi lo avranno visto quando si connettono oppure fanno il setup dei router Wi-Fi, è uno standard sviluppato parecchi anni fa per aumentare la sicurezza delle comunicazioni via Wi-Fi, ma è stata scoperta una vulnerabilità che mette a rischio le comunicazioni, potrebbe mettere a rischio le comunicazioni. Allora, che cosa possiamo farci? Su questo abbiamo sentito Corrado Giustozzi, che è un esperto di sicurezza, lo sentite spesso a 2024, è esperto di sicurezza informatica dell'Agenzia per l'Italia Digitale ed è membro anche dell'ENISA, l'Agenzia Europea per la Cyber Security. Che cosa possiamo fare di fronte a questa falla che riguarda una delle comunicazioni, uno dei sistemi di comunicazione più popolare, il Wi-Fi? Purtroppo può fare molto poco, perché non ci sono modalità per bypassare o limitare il problema. L'utente deve dare per scontato che la sicurezza della comunicazione non è più garantita, quindi potenzialmente qualche strano potrebbe ascoltare la comunicazione e quindi provvedere, diciamo, lui a mantenere la comunicazione sicura con altri modi, per esempio utilizzare soltanto siti web sicuri, quelli con l'HTTPS, soprattutto quando si devono mettere le password, anche la posta, assicurarsi che il proprio client di posta sia configurato rispetto al server in modo da non mandare le password in chiaro, è un'opzione molto vecchia, adesso quasi tutti i client mandano le password in modo cifrato, però è bene assicurarsene. C'è un problema di aggiornamento dei sistemi, andrà aggiornato il router Wi-Fi o andranno aggiornati i terminali che si collegano al router, quindi smartphone in primis, computer portatili, tablet, eccetera? Il problema riguarda soprattutto i client, per cui appunto i PC, i telefoni e via dicendo. Potrebbe in qualche caso essere necessario aggiornare il router, che comunque è un'operazione non difficile da fare, ogni tanto può capitare di farla, ma diciamo l'utente deve preoccuparsi soprattutto dei suoi client e anche qui l'utente può fare poco se non accertarsi che gli aggiornamenti vengano prodotti dal produttore e applicarli. Diciamo che i produttori di client più attenti, più evoluti sono già al lavoro e stanno producendo gli aggiornamenti, probabilmente per telefoni obsoleti o di marche minori con versioni vecchie di Android e soprattutto Android a essere vulnerabile, sarà difficile che le patch vengano prodotte e quindi quel client rimarrà purtroppo vulnerabile. Beh, come sempre gli aggiornamenti sono importanti, lo diciamo sempre, vanno aggiornati i sistemi operativi, le applicazioni sempre aggiornate. In generale è bene non usare poi il Wi-Fi per comunicazioni sensibili, ma questo appunto vale in generale, non solo in questo caso specifico rispetto a questa vulnerabilità. Dicevo, non usare il Wi-Fi per comunicazioni sensibili, come ad esempio quelle del conto corrente bancario. Fatelo da un computer collegato con il cavo, è molto più sicuro. Ed è anche vero che in questo caso parliamo di una vulnerabilità che può essere sfruttata da un hacker che si trova nelle vicinanze, quindi insomma state tranquilli, la situazione è abbastanza, non dico rarissima, però abbastanza rara. Poi se invece siamo in un luogo pubblico, se siamo nella hall di un hotel, magari preoccupiamoci un po' di più. Però sempre prudenza, utilizzare sempre prudenza e, come dicevo, aggiornare i sistemi. Quasi ogni settimana c'è una notizia o una indiscrezione che riguarda gli smartphone, ma sono, direi, poche le notizie importanti in questo settore, anche perché l'evoluzione tecnologica è ormai molto lenta, la curva si è abbastanza appiattita, ma dicevo sono poche le notizie importanti per capire l'evoluzione tecnologica di quello che io ormai definisco il telecomando della nostra vita. Lo smartphone ci permette, attraverso le applicazioni, di fare un sacco di cose e di telecomandare un sacco di servizi che ci servono. Questa settimana Huawei ha presentato dei nuovi smartphone, il top di gamma Mate 10 Pro, il Mate 10, che arriverà in Italia a metà novembre. Schermo da 6 pollici in formato 18 noni, che è il nuovo formato di molti smartphone. Anche questo telefono, come altri recentemente presentati, non ha la ricarica wireless e non ha nemmeno il jack audio, quindi vediamo sempre più smartphone che si stanno adeguando a questo quasi standard che aveva definito Apple, che aveva fatto molto clamore nel togliere il jack audio. Allora, probabilmente assieme alla fotocamera dei nuovi Pixel di Google, quella del nuovo Mate 10 e il nuovo Mate 10 Pro in particolare di Huawei è la migliore fotocamera oggi sul mercato, ma direi che la caratteristica più importante legata al nuovo processore prodotto da Huawei, il Kirin 970, perché un elemento di questo processore è dedicato ad operazioni legate all'intelligenza artificiale. Ci sono altri produttori, così come ha fatto anche Apple e così come stanno facendo altri produttori di tecnologia, che stanno immettendo sul mercato o progettando coprocessori ottimizzati per operazioni di intelligenza artificiale. Huawei lo ha fatto nel mondo Android, quindi potremmo dire che ha innovato questa era dell'intelligenza artificiale a bordo degli smartphone. Ricorderete la puntata della scorsa settimana in cui abbiamo proprio parlato della necessità di avere coprocessori dedicati all'intelligenza artificiale per aumentare le capacità di riconoscere oggetti, di riconoscere voci degli smartphone oppure dei computer, senza sfruttare il cloud, facendo tutto in locale. Se avete perso la puntata della scorsa settimana, ve la consiglio. Ma tornando a questo smartphone di Huawei, facciamo un esempio e ci facciamo aiutare da Pier Giorgio Furcas, che è General Manager della divisione Consumer in Huawei Italia. Faccio un esempio molto pratico. Un fotografo professionista, quindi cercando di legare l'intelligenza artificiale al mondo della fotografia. Quando un fotografo professionista deve passare dalla foto di un cane piuttosto che alla foto di un paesaggio, cosa fa? Prende la macchina fotografica e ovviamente la risetta in virtù delle condizioni ambientali e dell'oggetto, la cosa o lo scenario, il panorama che stanno andando a scattare. Perché? Per ottenere la foto migliore. Immaginiamo che un telefono sia capace di fare questo in un brevissimo tempo, andando a individuare la foto che si vuole fare. Quindi ecco, riesce a riconoscere se stiamo fotografando un paesaggio oppure un mazzo di fiori o un animale. Esatto, assolutamente sì. Ovviamente quando parliamo di intelligenza artificiale montata su un telefono, pregherei tutti insomma di prendere tutto ovviamente con le pinze, perché siamo nella fase iniziale, seppur comunque gli analisti dicono che Huawei è più di un anno avanti rispetto agli altri. Stiamo incominciando, oggi il processore è capace di elaborare fino a 2000 immagini al minuto, magari i prossimi che lanceremo saranno capaci di elaborarne 10.000, e con tutte le applicazioni che sta facendo Huawei e che ovviamente svilupperà anche il mercato, sicuramente avremo dei ritorni molto, molto interessanti. Quindi sarà molto, come dire, molto accattivante aspettare qualche mese, qualche anno per vedere delle soluzioni che magari oggi non pensiamo neanche di poter avere su un telefono. Senti, in questo mercato, e mi riferisco in modo particolare al mondo Android, come ci si distingue? Quali sono gli elementi principali per emergere in questo mercato, dove non dico per tutte le fasce di prodotto, ma a volte per il consumatore medio un telefono è molto simile ad un altro? Ormai quasi tutte le cose di base sono fatte in modo eccellente dai telefoni di oggi, dagli smartphone di oggi. Beh, oggi sono il design, la fotografia e la batteria. Quindi la fotografia è molto importante. È molto importante, la gente adora scattare foto, ma soprattutto foto belle per poterle poi postare. Ci sono delle foto che 20 anni fa non avresti mai fatto vedere a nessuno, ma che oggi non vedi l'ora di postare sui social network, però deve essere una foto fatta bene. E quindi la fotografia è uno degli elementi salienti anche nella ricerca, nella scelta del telefono da parte dell'utente finale. Senza dimenticarci del design, perché sai che da buoni italiani per noi anche l'occhio vuole la sua parte. Certo, però è vero che ormai molti telefoni si assomigliano. si assomigliano tanto, però diciamo così che anche la tecnologia legata alla parte display, le tecnologie che cercano di rendere il prodotto sempre un po' più slim, guardati con un po' più di attenzione uno si accorge che non sono tutti uguali. Il design è importante ed è per questo che noi abbiamo sposato la causa insieme a Porsche Design, che ci dà una mano in questo senso, cercando appunto di fare dei prodotti sempre più accattivanti. E questa era la voce di Pier Giorgio Furcas, che si occupa della divisione consumer in Huawei Italia, quindi soprattutto smartphone, ma non solo smartphone. Ricordiamo che Huawei è una delle più grosse aziende cinesi, una delle più grosse aziende di telecomunicazioni al mondo, e è nata soprattutto per le infrastrutture di rete, quindi antenne, apparati di rete che permettono di far comunicare i vari operatori, e poi gradualmente queste tecnologie sono state utilizzate anche per costruire telefoni e smartphone. Oggi pensate che l'Italia per Huawei è il principale mercato al di fuori della Cina, quindi è stato fatto un ottimo lavoro di crescita di questo brand sul nostro mercato. Oggi è numero 2 dopo Samsung, anche se dai numeri che vediamo che la rincorsa è piuttosto costante, e chissà che cosa succederà nei prossimi mesi. Circa un telefono su 3 è Huawei sul mercato italiano. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale a bordo degli smartphone. Questa è una tendenza tecnologica che abbiamo appunto commentato, che abbiamo commentato anche in questa puntata, approfittando del lancio del nuovo Mate 10 Pro. Ma c'è un altro aspetto molto interessante, molto importante, che riguarda le fotocamere sugli smartphone. Di questo voglio parlare con Gianfranco Giardina, che è il direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024, ciao. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo sentito che i consumatori vogliono fotocamere sempre più performanti, ed effettivamente i produttori ci hanno letteralmente stupito negli ultimi tempi, soprattutto negli ultimi mesi, per aver fornito, aver presentato sul mercato fotocamere che fanno foto straordinarie. Ma secondo molti esperti siamo ormai arrivati a un limite fisico, e Gianfranco, il limite fisico è dovuto sostanzialmente allo spessore degli smartphone. Ormai uno smartphone, diciamo, considerato attuale, alla moda, è spesso 7 mm, 8 mm, sicuramente meno di un centimetro. E fare una fotocamera che funzioni bene nello spessore sotto il centimetro richiede innanzitutto tecnologie molto avanzate, che sono infatti applicate in queste fotocamere, nelle migliori, anche addirittura con delle micromolle che gestiscono a una velocità incredibile addirittura la stabilizzazione ottica di queste fotocamere, pur in questi spessori. Quindi, certo, per stabilizzazione ottica intendiamo che quando poi uno muove lo smartphone, perché non usa un cavalletto come tutti noi quando inquadriamo un soggetto, in quel caso la nostra mano si muove un pochettino e tutto viene stabilizzato. La fotocamera con quelle mollettine a cui è attaccata l'ottica, diciamo così, adesso semplifico con le mollettine, sì, sì, qualcosa anche di molto sofisticato, compensa il movimento che noi facciamo, tenendo nel momento dello scatto l'ottica perfettamente ferma e solidale, ovviamente con la scena, in modo tale che non venga mossa l'ottica, tutto il gruppo fotocamera in realtà, non l'ottica. Addirittura quindi ci sono queste cose molto, molto sofisticate, ma c'è un limite dimensionale che impedisce fisicamente di migliorare particolarmente le prestazioni delle fotocamere di oggi. Bisogna fare una distinzione molto importante. Stiamo parlando delle fotocamere dei telefoni considerati top di gamma. Questi sì, hanno raggiunto il massimo delle prestazioni, perché vengono usati componenti e progetti che sono al di sopra di ogni sospetto. Chiaramente, se andiamo su smartphone da un centinaio di euro, poco più, il sensore diventa molto più economico, la stabilizzazione ottica non c'è più, le lenti sono un po' più economiche, E quindi diciamo in quel caso si può fare meglio, evidentemente. Quindi non tutti gli smartphone sono arrivati al massimo, i top di gamma sicuramente sì. Certo, però visto che noi prendiamo spesso come esempio i top di gamma perché sono quelli dove l'innovazione si mostra, stiamo parlando di un limite fisico, se non altro, perché è importante ricordare che così come per l'audio, anche nel caso della fotografia ci scontriamo con dei limiti fisici, no? È tutto un progetto di una fotocamera qualsiasi, diciamo, ma soprattutto quella che ha dei vincoli dimensionali dati, perché io posso fare una reflex, posso farla grande quanto voglio, poi sarà scomodo da portare in giro, però è grande, è bella e funziona molto bene. Ma quando ho dei vincoli dimensionali come quelli di uno smartphone, sono costretto a fare una progettazione che parte da quei 7 mm di spessore. E questo è una coperta corta, porta dei vincoli, e devo andare a ottimizzare, se sono il progettista ovviamente, andare a ottimizzare tutti i parametri che compongono la fotocamera per stare dentro in queste dimensioni. Il vincolo fondamentale è la dimensione del sensore. Il sensore è la nostra pellicola, quella di una volta, solo che è digitale. È un reticolo, una matrice, un alveare, diciamo, di fotosensori, quindi di piccolissime superfici sensibili alla luce, quindi registrano la luce. Ogni pixel dell'immagine, e ricordiamo che gli smartphone hanno 10-12 milioni di pixel, ogni pixel è composto da 3 fotosensori, uno per ogni componente cromatica fondamentale. Vuol dire che un sensore da 12 megapixel ha 36 milioni di fotosensori. Pensate alla miniaturizzazione di queste tecnologie, è pazzesca. Sì, anche perché questi sensori sono poi piccolissimi, ma devono essere piccolissimi, perché in realtà se il sensore fosse grande, esagero, grande tanto quanto lo smartphone, sarebbe meglio, innanzitutto sarebbe comunque costosissimo, ma comunque sarebbe meglio, perché la luce che incide su questo sensore sarebbe di più, e più luce ho, meglio riesco a catturare l'immagine, la foto, eccetera eccetera, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, che sono proprio le condizioni in cui magari lo smartphone fa vedere maggiormente i suoi limiti. Ecco, il problema è che tutta l'ottica, le lenti che stanno davanti al sensore per convogliare correttamente l'immagine sul sensore, crescono proporzionalmente, crescono di spessore, di lunghezza, la distanza focale cosiddetta. Quindi cosa succede? Quando io ho una reflex e ho un obiettivo di un certo tipo, ho un obiettivo che ha una lunghezza alcuni centimetri, anche decine in alcuni casi, no? Allora, ricordiamo, la reflex è la macchina fotografica per antonomasia, cioè quella grossa, che pesante, che si tiene al collo, ottiche intercambiabili eccetera, eccetera, e ogni ottica è un bel blocco che va intorno ai 10 centimetri, ecco, quindi io devo concentrare, condensare tutto questo progetto ottico in uno spazio di 7 mm invece che una decina di centimetri, è chiaro che devo ridurre tutto di conseguenza. Ma più riduco il sensore, più questo riceve meno luce. E quindi qui già siamo al primo compromesso, no? Per avere delle foto belle io ho bisogno di un sensore molto sensibile. Molto sensibile molte volte richiede ovviamente che io vada a aumentare elettricamente la sensibilità, e vediamo il rumore. Quando vediamo quelle foto tutte puntinate, a volte puntinate con un rumore, appunto con questa grana, chiamiamola così, monocromatica, a volte addirittura con delle stelline rosse e verdi si vedono, ecco, e con le foto che vengono fatte in condizioni di bassissima luce, è perché siccome la luce non è sufficiente, il sensore aumenta elettricamente la sua sensibilità, ma chiaramente nel farlo commette alcuni errori, certo, e quindi crea questo rumore. Per tenere il rumore basso ho bisogno di un sensore luminoso. Un sensore luminoso dovrebbe essere grande. Anche la risoluzione conta, perché se io passo dai 12 megapixel, 10 megapixel, decido, ma è molto più bello avere un sensore da 25 megapixel. Benissimo, peccato che se io voglio fare 25 invece di 12, praticamente raddoppiare il numero di fotosensori, e questi diventano grandi la metà, occupano la metà, devono occupare la metà dello spazio a parità di dimensione, quindi beccano ognuno un po' meno metà luce, quindi diventano a questo punto più rumorosi, meno sensibili, anche anche questo è un compromesso. Questo è uno dei motivi per cui ultimamente abbiamo visto addirittura una risoluzione che è diminuita. Abbiamo visto delle fotocamere da 16 megapixel, per esempio, nella generazione successiva del medesimo telefono, migliorare le prestazioni diventa da 12 megapixel. Certo. E uno dice, ma come? Perché l'ottimizzazione suggeriva che il compromesso giusto era quello. Beh sì, ma perché molte volte i megapixel per troppi anni sono stati un indicatore che andava bene per il marketing. Quindi dire ho uno smartphone o anche una fotocamera da 12 megapixel era più brutto che dire che era una da 16, una da 24. Ma questo è un numero che senza considerare poco, il resto, certo. Dice poco, così poco che molte volte una risoluzione più alta può corrispondere a una fotocamera peggiore. Quindi abbiamo detto, non posso crescere con la dimensione perché sennò sporgerebbe l'ottica, e già sporge. Il motivo per cui vediamo sporgere leggermente l'ottica della fotocamera di alcuni smartphone è proprio quello che se non si rubasse quel millimetro aggiuntivo, le prestazioni della fotocamera peggiorerebbero perché dovrei prendere un sensore più piccolo, quindi meno sensibile, meno luminoso, cioè, quindi sono costretto, come progettista sempre, a far uscire leggermente, a accettare una violazione del design. Non c'è nessun bozzo da fotocamera, diciamo così, che sia bello da vedere, sono tutti brutti, però se io punto sulla fotocamera come una delle funzioni importanti dello smartphone, accetto quel millimetro rubato sullo spessore, solo in corrispondenza della fotocamera. E poi c'è anche il discorso delle lenti. Se io volendo potessi pensare di fare una lente teleobiettivo, quindi andare a avere uno smartphone che mi possa fare un bel ingrandimento, un bel close-up di un soggetto lontano, un teleobiettivo ha una focale lunga, quindi avrei uno spessore che esce clamorosamente. E questo è il motivo per cui tutti gli smartphone hanno degli obiettivi grand'angolo. Sì. Perché io più ho un obiettivo stretto, più diventa lunga la lente. Sì, sì. E quelli che hanno due fotocamere, perché ci sono gli smartphone che hanno due fotocamere, di cui uno è un grandangolo e uno è un pochino meno grandangolo, è un tele. Ecco, questo pochino meno grandangolo, che avrebbe quindi una lunghezza focale maggiore, quindi sarebbe più spesso, ha in realtà un sensore più piccolo. È il motivo per cui queste fotocamere sì sono in grado di inquadrare con un angolo più stretto. Non è un tele, ma diciamo è un pochino più zoomata l'immagine, ma lo fanno con una qualità peggiore, perché il sensore, per avere il medesimo spessore, il sensore deve essere più piccolo. Sì, sì. E quindi siamo arrivati a un compromesso. Oramai, dovunque la tiri, non si cambia una tecnologia... Esatto, siamo arrivati al limite fisico, in base alle tecnologie che conosciamo oggi, un po' come le batterie. Sì, ci sono tentativi di aumentare la capacità della batteria, cercare di far che il telefono evoluzioni consumi meno, però... e non rivoluzioni. Esattamente, quindi questo sta succedendo. Allora, in generale tutti i produttori stanno cercando di sopperire a questa difficoltà, a questi limiti tecnologici, a questa serie di compromessi che tu hai ben raccontato, con il software. Cioè, laddove si può. Dove si può. Si può fare con il software? Allora, partiamo da quello che non si può fare. Okay. Allora, lo zoom, quando voi fate lo zoom col pinch and zoom, con le dita, si ingrandisce l'immagine e l'immagine si zoom, in realtà è uno zoom digitale. Sì. Quindi non è uno zoom, andiamo a prendere una porzione dell'immagine e la ritagliamo. Punto. Quindi la risoluzione reale dell'immagine scende tanto quanto noi ritagliamo l'immagine iniziale. Quella cosa iniziale. Lì viene piuttosto male al software. Quella roba lì, per quanto poi applichi dei filtri per interpolare correttamente l'immagine e riportarla a una risoluzione più alta, il succo è che si vede. Si vede e viene abbastanza male e non potrà mai venire bene. Mancano le informazioni. E quindi, per quanto il sistema sia intelligente e anche, diciamo, aggiungendoci l'intelligenza artificiale possa intuire quale possa essere il pattern mancante tanto da aggiungerlo, uno è soggetto a errori anche in questo caso, e due, non può inventare informazioni che mancano, e quindi è un finto zoom, bisogna dirlo. Quello che invece può fare è il software, è migliorare ulteriormente sul fronte della compressione. Quindi garantire o una qualità d'immagine maggiore a parità di dimensione del file o una pari qualità d'immagine con file ancora più snelli, Addirittura arrivare, già qualche fotocamera incomincia a farlo, magari non benissimo, potrebbe farlo meglio, per ogni scatto a scattare automaticamente una quantità potenzialmente anche enorme di scatti e scegliere quello che è migliore, o addirittura farlo a diverse condizioni di esposizione e poi scegliere quello che è meglio. È stato dimostrato che quando le fotocamere fanno così e lo fanno poi scegliere la migliore foto all'utente, l'utente non lo fa, lo trova noioso, lo trova lungo, e quindi è una cosa che non funziona. L'approccio che viene applicato ora, che sarà sempre più applicato, è quello di far scegliere l'intelligenza artificiale sulla base di una serie di foto considerate belle, una serie di foto considerate brutte. Il sistema viene addestrato ovviamente alla base, non deve addestrare l'utente. Ecco, quali sono le foto più riuscite, e quindi presentare all'utente solo quelle, addirittura trascurando o buttando via direttamente gli scatti fatti in più. E quindi in questo modo noi possiamo andare a evitare magari degli errori, delle esposizioni sbagliate, andare a prendere proprio quella che cattura il viso nel miglior modo. E quindi andare col software a sopperire a quelli che possono essere anche gli errori di esposizione che magari la macchina faceva prima. Quindi migliorare non quello che non si può migliorare con il limite fisico. Punto. Sì. Però se vogliamo, e se l'industria vorrà, come credo che vorrà, continuare a proporre delle moduli fotocamera sugli smartphone sempre migliori, con prestazioni più ampie, bene che si metta a lavorare più sulla parte software invece di usare magari le librerie di base dei sistemi operativi, che spesso sono un po' limitate, ma lavori per migliorare proprio il software di scatto e post elaborazione, perché poi i dati che vengono catturati dal sensore, i cosiddetti dati RAW, quindi i dati grezzi, sì, vengono poi sempre elaborati e sviluppati, diciamo così, è uno sviluppo digitale ovviamente, dalla fotocamera e dal suo software. E come questo viene fatto determina, può determinare la differenza. Se no, il destino sarà sempre più quello di sentirci raccontare di miglioramenti dei moduli fotocamere di anno in anno, che in realtà lasciano molto spazio al marketing e meno spazio alla sostanza. Sì. Siamo un po' arrivati al limite dove finisce l'innovazione vera e incominciano un po' gli slogan di marketing. Fino a che non ci sarà un salto generazionale. Il salto generazionale può essere nei sensori, che potrebbero essere costruito in una maniera completamente diversa, nelle lenti, nelle ottiche, sì. Si lavora sulle lenti liquide, che quindi possono essere gestite, come dire, possono cambiare geometria a seconda della foto che voglio fare. Si parla anche di ci sono stati anche degli esempi di qualche architettura, chiamiamola a periscopio, per cui il sensore non è più messo a planare rispetto alla fotocamera, ma è messo ortogonale e ho un sistema di specchi che mi permette di allungare la distanza focale, quindi di avere anche un teleobiettivo sugli smartphone. Tutte cose che si vedranno in futuro. Al momento lo stato dell'arte è quello che abbiamo raccontato. Esatto. Una considerazione generale sulla qualità delle foto, anche la qualità che i software riescono a creare delle foto che noi scattiamo con gli smartphone. Tu sei d'accordo con quelli che dicono che oggi, se parliamo dei top di gamma, quelli che fanno le foto migliori, la qualità è più che accettabile per la stragrande maggioranza degli utenti, anche in condizioni di luce non ottimale, che ne so, al tramonto, di sera, in condizioni di luce particolare? Allora, in ottime condizioni di luce, quindi quando la luce è tanta di giorno, quindi, gli smartphone fanno delle foto oramai sensazionali, spesso addirittura i migliori smartphone non svelano grandi differenze rispetto a foto fatte anche con delle reflex di media gamma, il che è veramente incredibile, sorprendente. Sì, sì. I limiti intervengono un po' di più quando la luce è bassa, perché ovviamente col sensore piccolo ci sono i limiti di cui abbiamo parlato. E c'è un'altra osservazione da fare che riguarda l'estetica delle fotografie. Se io sono davanti a due immagini, soprattutto non stampate, come si stampavano una volta, ma viste su un display che è luminescente, le foto più sature, quindi con i colori più intensi, sembrano decisamente più belle. Sembrano più belle, ma non descrivono la realtà. O comunque, anche se andiamo a vederle come, diciamo, elaborazione creativa della realtà, spesso non sono neanche proprio belle come immagini. Sì, però sì, sì. A un occhio di un profano paiono più belle. Quindi cosa succede? Nella post-produzione che tutti i software degli smartphone fanno, alcuni di questi sono un pochino più aggressivi nel pompare i colori, nel pompare la cosiddetta maschera di contrasto, quindi il micro dettaglio, per farle sembrare più croccanti, più incisive, anche quando non lo sono, perdendo invece l'estetica fotografica migliore. Sì, no? Se pensiamo adesso che è autunno, una bella foto fatta a un bosco con le foto, oh, yes, certo, le foto che sono marroncine, gialle, quello che tu stai dicendo è che questi software tendono a esagerare certi colori, e un po' come per il cibo, certi cibi un po' troppo salati, trovo che magari a uno che non è esperto appaiono come molto buoni, molto saporiti. Questo è un ottimo esempio. Dopodiché cosa facciamo? La lingua, il gusto si abitua a questi sapori e poi tornare indietro sembra di mangiare qualcosa di sciapo, no? Ecco. Allora quello che sta succedendo è che stanno un po' cambiando i gusti delle persone. E mentre prima avevamo un gusto fotografico più delicato, dove si andava a vedere più il dettaglio, eccetera, eccetera, adesso siamo un pochino più cacciaroni da questo punto di vista. Dico siamo perché siamo diventati un po' tutti, anche perché visti su questi display, effettivamente sembrano veramente più belle. Se li vedessimo stampate, queste foto risulterebbero forse anche troppo scure, troppo cariche di colore, troppo inchiostro, tanto per intenderci, e invece su un display risultano più belle. E questo sta spingendo un po' verso una spinta di elaborazione di questo tipo. Adesso le fotocamere incominciano a catturare gli smartphone incominciano a catturare le foto anche in formato RAW, le migliori, quindi in formato grezzo, da sviluppare successivamente. Ecco, io consiglio a chi ha voglia, un minimo di amore per la fotografia e ha uno smartphone di questo tipo, di scaricare il file RAW, di provare a svilupparlo in diversi modi, quindi applicare lui la post-produzione che ritiene più opportuna e scoprire magari che dietro una foto presentata dalla macchina in una certa maniera c'è un'immagine che è molto più bella, molto più sofisticata e anche molto più interessante da stampare. Io devo dire, se bisogna stampare le foto, stamparle così come escono dagli smartphone non è sempre una buona idea. Bene, grazie Gianfranco per questo racconto di un pezzo della nostra vita, perché tutti fanno, visto che è così facile e abbiamo spazio all'infinito, oggi siamo abituati a scattare foto così come se non ci fosse un domani. Beh, meno male. No, ma va benissimo. Però si scatta. Però appunto con le derive che abbiamo anche raccontato, e a volte anche una banalizzazione della fotografia che in alcuni casi invece richiederebbe un po' più di attenzione, però adesso non vogliamo esagerare. Bene, grazie a Gianfranco Giardina per essere stato con noi. A presto Gianfranco, ciao. Grazie mille. L'ultima parte di 2024, io sono Enrico Pagliarini, parliamo di Marte, della conquista dello spazio, l'avevamo anticipato la settimana scorsa. Saluto Luigi Bignami, giornalista esperto di spazio. Luigi, bentornato a 2024. Grazie. Noi Luigi in questa puntata vorremmo parlare di Marte, dei progetti che sono stati annunciati o degli aggiornamenti che sono stati fatti recentemente, a partire da quello che ha detto Elon Musk. Elon Musk, ricordiamo, oltre che fondatore di Tesla, fa parlare di sé moltissimo con le auto elettriche, ma anche di SpaceX, con tutti i record, i risultati ottenuti da SpaceX, la cui caratteristica fondamentale è aver utilizzato tecnologie già note, ma essere riuscito ad ottimizzare tutto quello che fino a poco tempo fa si utilizzava per andare nello spazio, Luigi. proprio così, è ottimizzare il viaggio nello spazio. Come utilizzarlo? Abbiamo visto che ormai ha realizzato 18 missioni spaziali riportando a casa il primo stadio. Abbiamo visto come riesce ad utilizzare motori a metano, che sembra, diciamo, come il motore a metano, eppure è la tecnologia più semplice e anche migliore per poter andare su Marte. Perché? Perché su Marte potremo ottenere il metano dall'anidride carbonica e dall'acqua. E anidride carbonica, componente essenziale dell'atmosfera marziana, acqua presente nel sottosuolo con i ghiacci, e lì si potrà quindi produrre carburante. Quindi è inutile che io mi costruisco un motore di tecnologia avanzatissima e nuovissimo se poi devo andare su Marte e non posso rifornirlo. Ecco che quindi ha pensato bene ad utilizzare quello che oggi conosciamo. Certo, sta mettendo a punto questo razzo pazzesco con 31 motori, e qui ecco la tecnologia di punta. Uso motori già utilizzati su il Falcon 9 e prossimamente anche su Falcon più potenti, e li unisco insieme per creare un razzo potentissimo e per poter portare l'uomo su Marte. Questo è il passo successivo, ma con tecnologia già sperimentata. Questi motori a metano sono già utilizzati oggi sui Falcon? Certo, certo. Tu hai citato Marte, e effettivamente Elon Musk un paio di settimane fa ha parlato, o ha riparlato in modo esplicito, di Marte. Oltre che alcuni ascoltatori ci hanno esplicitamente richiesto di occuparci di questo tema, ma anche io mi sono appuntato una data: portare uomini su Marte nel 2024, visto che la mia trasmissione si intitola 2024, ho detto qua bisogna che ci occupiamo di questo tema. Che cosa succederà da qui al 2024? Quali sono i piani di SpaceX per portare gli uomini su Marte? Poi cerchiamo di capire se SpaceX è l'unica società o c'è un po' di fila per andare su Marte. Allora, Elon Musk ha definito la scaletta per arrivare a Marte. In questo momento sta mandando nello spazio una serie di razzi impressionante. In 3 giorni lancia 2 razzi con satelliti, addirittura con 10 Iridium, come ha lanciato recentemente. Adesso lancerà un razzo segreto che non era in programma, almeno non era nella scaletta ufficiale, però lo si vede. E tra fine novembre e i primi di dicembre dovrebbe lanciare il nuovo razzo molto potente, il Falcon 9 Heavy. In pratica sono 3 razzi, uno attaccato all'altro, che dovrebbero riuscire a portare materiale attorno alla Luna e addirittura su Marte, volendo. Ma diciamo, differentemente da quanto era stato detto un paio di anni fa, non verrà utilizzato questo razzo per portare l'uomo su Marte, ma Musk ne sta costruendo un altro ancor più potente, un grande diciamo Falcon con 31 motori. Con questo razzo si riuscirà a portare uno space shuttle gigantesco, che prima era stato previsto poter portare fino a 200 persone, adesso fino ad un centinaio di persone, ha detto proprio al pubblico. Quindi diciamo un po' più piccolo rispetto al precedente, e questo diciamo grande razzo dovrebbe portare dapprima in orbita terrestre lo shuttle, lasciarlo lì, poi ritornare a terra, caricare un altro shuttle pieno di carburante, di metano appunto, portarlo nello spazio, agganciarlo alla navetta con gli uomini e scaricare tutto il carburante all'interno dello shuttle con gli uomini, che poi dovrebbe andare su Marte. Lì dovrebbe arrivare in orbita attorno al pianeta rosso, scendere come uno space shuttle sfruttando la debole atmosfera marziana di anidride carbonica e atterrare in piedi. A questo punto, questo grande shuttle dovrebbe permettere la discesa dell'uomo su Marte, costruire una piccola base, ma subito dopo ne arriverebbero altri di razzi di questo tipo, e Elon Musk ha mostrato una grande città su Marte che dovrebbe diventare permanente per centinaia, migliaia di persone. Questo razzo potrebbe poi ritornare in orbita terrestre e da lì in orbita marziana e da lì ritornare a Terra. Questo è come ha mostrato anche tutto com'è l'interno di questo Space Shuttle, dove ci sarà una biblioteca, ci saranno dei cinema, ci saranno una specie di transatlantico, no? Esattamente. Ma quanto grande? è circa 40 metri di altezza, quindi è un grosso space shuttle su piani diversi e con tante camerette dove potranno vivere gli astronauti turisti. Più del doppio dello space shuttle che conoscevamo fino a qualche anno fa, che adesso non si usa più. Esattamente così. Razzo e space shuttle dovrebbero essere alti circa 100 metri, 106 metri. Ancora più grande, quindi tutto il sistema è una roba impressionante. Certo, sarà come il Saturno 5 che portò l'uomo sulla Luna, grosso modo. Quindi come altezza, sì. Poi è molto più potente. Esattamente, quindi una cosa enorme. E qui diciamo c'è un po' lo scetticismo da parte di chi assegue tutte queste vicende, perché questi 31 razzi ci riportano un po' alla memoria l'H1 russo, quello che venne messo a punto per vincere la gara per chi sarebbe arrivato per primo sulla Luna con l'uomo, quando gli americani avevano il Saturno 5 con 5 razzi, dall'altra parte c'era l'H1. Ora non ricordo il numero preciso, ma con decine di razzi che lo dovevano portare nello spazio, e tutti i tentativi di lancio fallirono. Lo stesso Elon Musk ha detto che questo lancio sarà difficilissimo, almeno i primi saranno difficilissimi. Sarà difficilissimo lo stesso Falcon 9 pesante, quello con diciamo molto più potente rispetto adesso a quello attuale. E quindi insomma ci troviamo di fronte davvero a una grande sfida. Tu ci credi? Io voglio crederci, perché vorrei vedere l'uomo su Marte davvero nel 2024. Lui ha detto così, ha cancellato definitivamente la missione del 2020, che sarebbe stata quella che avrebbe portato la Dragon 2, quello che dovrebbe portare gli astronauti alla stazione spaziale e attorno alla Luna, se non sulla Luna. Ha cancellato questo progetto perché la Dragon 2 ha dei problemi in fase di atterraggio, dovrebbe avere problemi in fase di atterraggio su Marte, quindi ha preferito cancellare questa missione senza uomini e puntare subito su questa missione fantascientifica. Sì, esatto, anche perché mancano effettivamente pochi anni, anche se uno guarda quello che negli ultimi anni ha realizzato SpaceX con i razzi Falcon, e io vi invito ad andare su YouTube a vedere che cosa succede, cioè questa, che forse è la novità più eclatante e più impressionante, sorprendente, questa tecnologia che permette al primo stadio, invece che andare perso oppure arrivare nell'oceano col paracadute, con un sistema di retrorazzi, di riatterrare, di tornare indietro e atterrare in verticale. Quindi lo si prende, lo si mette a posto, lo si riempie di carburante di nuovo, lo si riutilizza. E lo ha già riutilizzato, quindi non è soltanto sulla carta, ha già lanciato per due volte un razzo riutilizzabile. Quindi davvero siamo alla realtà di quello che Elon Musk ha detto più volte nel passato. Sì. Oltre a SpaceX... Oltre a SpaceX è stato molto bello ascoltare diciamo la Lockheed Martin, che ha presentato il proprio piano per andare ad esplorare Marte. La Lockheed Martin diciamo collabora con la NASA per costruire la futura navicella spaziale, la Orion, o Orion anche qui in italiano, dipende come vogliamo dirla, e quindi è una società estremamente affidabile. Lockheed Martin vuol dire spazio, sì, vuol dire tutto quanto. Aerei militari, armi, cioè fa un sacco di cose. Esattamente. Allora, qual è il suo piano che ha mostrato? E anche qui parla di entro la fine degli anni 20, quindi magari un po' dopo il 2024, 2026, 2028, pensa di costruire una grossa struttura simile ad una mini stazione spaziale, un grosso laboratorio dove poter fare degli studi, dove in futuro poter portare da Marte dei campioni su questo laboratorio e poterli analizzare, dove gli astronauti potranno diciamo guidare direttamente dei rover su Marte. A questo grande laboratorio ce ne sarà un altro dove gli astronauti potranno passare la loro vita quotidiana, mangiare, dormire, un po' divertirsi e così via, e una navicella Orion che dovrebbe servire per portare gli uomini dalla Terra fino a questa stazione spaziale. Questa stazione spaziale dovrebbe andare direttamente su Marte. Non è fatta per portare l'uomo su Marte, ma per portare l'uomo attorno a Marte. Il fatto di non andare direttamente su Marte, uno dice, ma arrivi fin lì e perché non ci vai? Perché c'è una grossissima difficoltà nel far scendere un'astronave e poi farla ripartire. Non è un caso che anche sulla Luna, prima di atterrare, ci hanno messo un po'. Prima sono andati e ci hanno ruotato attorno, no? Certamente, Apollo 8, Apollo 10 e così via. Quindi davvero c'è questa difficoltà. Però c'è un passaggio importante, quello di poter arrivare e scendere sulle lune di Marte, su Phobos e Deimos. Optimus, che sono dei piccoli oggetti di pochi chilometri di diametro, ma lì permetterebbe davvero di fare dei campionamenti e di lasciare una base, diciamo, di soccorso per un futuro, perché in quel punto noi potremmo costruire una, proprio, diciamo, una specie di ospedale, volendo, dove partire da lì per tornare a Terra è molto più semplice, perché la forza di gravità è praticamente nulla. Lì ci si può arrivare a pochissimi metri con la Orion, l'astronauta scende come per fare una passeggiata spaziale e scendere sul pianetino, diciamo su questo satellite, su questo oggetto, fare tutto quello che deve fare, ritornare nella navicella e questa poi ritornare alla stazione spaziale attorno a Marte e da lì ritornare a Terra o tornare a Terra direttamente. Quindi l'idea è questa: io vado attorno a Marte, vado a mettere una piccola base su uno di questi satelliti, probabilmente Phobos, che è il più interessante anche dal punto di vista geologico, e in un momento successivo, allora parliamo di anni 30, quando sarò in grado di costruire una navicella che dalla stazione spaziale possa scendere su Marte, la faccio attraccare alla stazione spaziale, la faccio scendere su Marte e poi da Marte riporto gli uomini alla stazione spaziale, che richiede molta meno energia che non far partire un'astronave da Marte e farla ritornare direttamente a Terra. Sì. Quindi ha mostrato questo progetto che sembra realizzabile, perché dal punto di vista tecnologico è realizzabilissimo. Diciamo che ci sono ancora quei problemi molto importanti di radiazioni cosmiche, di cui si sta parlando tanto, insomma, di questioni psicologiche per gli astronauti e così via, però sono tutti problemi tecnologici che si possono risolvere. La NASA cosa sta facendo? La NASA sembrerebbe ormai percorrere la strada per arrivare a Marte passando dalla Luna. Noi sappiamo che nel passato era stato detto: no, sulla Luna non ci andiamo più, ormai andiamo su Marte, facciamo delle prove andando a prendere un asteroide, portandolo vicino alla Terra in modo tale da provare tutte queste tecnologie. Insomma, adesso ha fatto un altro passo, soprattutto con Trump, vuole vedere degli uomini subito, molto presto, attorno alla Luna, se non addirittura sulla Luna. Ormai ci sono anche queste correnti di portare contemporaneamente l'uomo attorno alla Luna e anche sulla Luna, ma per andare su Marte si deve costruire una stazione spaziale vicino alla Luna, che possa essere in un punto dell'orbita lunare che guarda sempre la Terra, quindi in modo tale che non sia in orbita attorno alla Luna, che ce la perdiamo ogni tanto, ma questo è possibile, sistemarla in un punto dove forza di gravità della Terra e della Luna si equivalgono e lasciarla lì. E mandare degli astronauti, non sarà sempre abitata, mandare degli astronauti una settimana fino a un anno o due anni, il tempo cioè di una missione marziana, per provare tutto quello che serve per andare su Marte. Ma da quella stazione spaziale si possono provare anche a muovere dei rover sulla Luna in tempo diretto. Ora dice: ma anche dalla Terra lo facciamo? Sì, ma dalla Terra abbiamo il ritardo di un paio di secondi, perché se io do un impulso adesso arriva sulla Luna dopo un secondo e mi ritorno indietro, invece dalla stazione spaziale è praticamente sei quasi in tempo reale. Esattamente, per cui da lì posso anche provare queste tecnologie. E quando sarà il momento giusto, e qui purtroppo date non ce ne sono, però parliamo di anni 30 a questo punto, da quel punto arriverà un grosso razzo che permetterà il lancio della struttura che permette agli uomini di vivere verso Marte. E anche qui sembra che nel primo progetto la NASA non punterà a scendere su Marte, ma a girarci attorno. Quindi probabilmente, se tutto va come deve andare, Elon Musk con SpaceX dovrebbe essere il primo. Sì, dovrebbe essere il primo a portare un uomo su Marte. Senti, oppure 100 uomini addirittura, se gli va bene quel progetto. Russi e cinesi, oppure indiani, giapponesi, cioè stiamo vivendo una nuova corsa a, non in questo caso alla Luna, verso Marte, o sono sostanzialmente gli americani che stanno puntando a Marte? Perché tutte le aziende che abbiamo citato sono americane. Tutte queste nazioni hanno un interesse verso Marte, partendo dalla Cina ha detto che ha un interesse, vorrebbe mandare un rover su Marte, addirittura parlava del 2020, poi ha avuto dei problemi con il nuovo razzo potente che avrebbe dovuto lanciare sia sulla Luna che appunto su Marte questi nuovi mezzi, e quindi probabilmente ci sarà un ritardo. Si parlava di 2020, ma forse si andrà nel 2022-2024. 4. Quindi ha un interesse. Non sta parlando di uomini su Marte, perché il suo obiettivo primario in questo momento è una stazione spaziale attorno alla Terra. Inizierà dal fine 2019-2020 a costruirla. Ormai si sta già costruendo e l'Italia partecipa con le principali industrie a questa costruzione. Addirittura Samantha Cristoforetti ha partecipato con gli astronauti cinesi ad alcune missioni terrestri di prove di tute, prove di salvataggio e quant'altro. Quindi, sì, tra l'altro Samantha Cristoforetti, che oltre a sapere già un numero abbastanza ampio di lingue, ha dimostrato di saper parlare un cinese incredibilmente buono. Sì, non quindi so come faccia. È un mistero, sì. Esattamente, sì. Avrà un trucco particolare, però ci sta riuscendo. Quindi diciamo, c'è questo interesse alla stazione. Per chi non lo sapesse, penso che sia nota a tutti, però Samantha Cristoforetti è la nostra astronauta, la prima astronauta italiana donna ad andare sulla Stazione Spaziale Internazionale, un paio di anni fa, giusto? Esattamente. Dicevi? Dicevo, quindi c'è la Cina che ha questo interesse, e la Cina ha l'interesse per la Luna, infatti ha alcune missioni per andare a esplorare la Luna. La Russia sa di non poter da sola lanciare degli uomini a Marte, quindi ha già firmato un contratto con la NASA per aiutarla nel costruire la stazione cislunare, quindi diventerà una nuova stazione davvero diciamo internazionale lì vicino alla Luna. L'Agenzia Spaziale Europea è pienamente dentro questo progetto. Stiamo costruendo il modulo di servizio dell'Orion, modulo di servizio che ci può, diciamo, servizio sembra una cosa di secondaria importanza, invece è tutta la parte che sta dietro alla capsula dove contiene gli uomini, dove ci sono tutti i serbatoi, dove ci sono i computer, dove c'è l'anima, il cuore, dove ci sono i motori di questa navicella. Quindi è un elemento importantissimo, e lancerà proprio con questo sistema la NASA lancerà nel 2021 la prima navicella per un viaggio senza uomini attorno alla Luna, poi nel 2022 i primi uomini attorno alla Luna. Quindi diciamo che le nazioni stanno interessandosi a Marte, ma aggregando i propri sforzi, ad eccezione della Cina, che sta lavorando un po' per proprio conto con obiettivi diversi rispetto a quelli di portare uomini su Marte, ma le altre nazioni stanno lavorando insieme per questo grande obiettivo. Senti, parlando di tecnologie, c'è qualche cosa di nuovo sui motori, o sostanzialmente vengono utilizzati motori magari non a carburanti solidi come eravamo abituati, o come siamo ancora abituati per molti razzi, ma come dicevi tu, a metano? Ma cose nuove non ce ne sono. C'è qualche satellite che utilizza motori elettrici, che è interessante, no? Ci sono le sonde utilizzate per l'esplorazione dei pianeti a motore ionico. Sono questi motori che utilizzano pochissimo carburante, questo è il bello del motore ionico. Quindi ci sono delle sostanze particolari che solo a pronunciarle fanno venire la pelle d'oca, per esempio lo xenon, no? Si mette questa sostanza, si elettrizza con i pannelli solari questa sostanza, si fanno, cioè staccare gli elettroni, e questi elettroni vengono eiettati dal motore con una certa velocità, e quindi c'è l'impulso della navicella ad andare avanti. Sì, è una delle caratteristiche del motore ionico, è che accelera sempre. Esatto, e questo è proprio l'elemento fondamentale, hai messo proprio i puntini sulla i, è l'elemento fondamentale, accelera sempre ma poco, e questo è il pro e il contro, nel senso che nel giro di un giorno, due giorni, tre giorni la mia navicella va molto piano rispetto al lancio di un razzo con combustibili metano, cherosene, idrogeno, ossigeno e così via, però accelera sempre, e se io non ho problemi di tempo allora posso far accelerare questa navicella anche a 70.000 km all'ora, non è un problema, devo avere pazienza. Allora questi motori che sono stati usati per esempio per l'esplorazione dei pianetini, degli asteroidi, con Dawn per esempio è una sonda che ha esplorato prima Vesta, poi Cerere, ecco queste navicelle che durano, le cui missioni durano mesi, anni e così via, hanno a bordo questo tipo di motore. Ora si sta cercando, ma siamo già molto molto avanti, di creare dei razzi molto potenti con questo tipo di motore. Cosa serve? Serve per mandare del materiale a Marte con molto anticipo, prima che arrivi l'uomo. Quindi se l'uomo dovesse programmare un viaggio nel 2024, io nel 2020 lancio il mio razzo con tutto il materiale. Ci vuole proprio così tanto tempo. Ci vogliono una missione a Marte in questo momento richiede dai 6 agli 8 mesi, a seconda dell'anno in cui si lancia e così via, che avviene ogni 2 anni per una questione di distanza Terra-Marte. Certo, così, certo. Però non è orbita attorno al Sole. Esattamente. Mm. E se io devo utilizzare invece un razzo ionico, devo pensare ad almeno un anno e qualche mese, quindi molto di più, per cui devo anticipare la missione umana di almeno 2 anni. Ma questo mi dà una certezza, perché io avrei poi là una base su cui avere pezzi di ricambio, su cui fare tanto affidamento. Ecco, questo è il motore del, diciamo, tra virgolette, del futuro, che vedremo utilizzare proprio per il trasporto merci, il cargo, no, che ci porta materiale a Marte. Sì, quindi per tante cose continuiamo a guardare film di fantascienza, perché poi nella realtà è molto di motori nucleari, l'energia nucleare, perché effettivamente uno dei problemi che abbiamo nello spazio è che a un certo punto il carburante finisce. Il motore nucleare è certamente il futuro dell'esplorazione umana nel sistema solare. Avere un motore nucleare significa poter andare a Marte in poco meno di un mese, ecco, anziché i 6 mesi che sono necessari adesso. Allora, il motore nucleare è complicatissimo. Erano stati fatti studi già negli anni 60, quando proprio l'uomo stava andando sulla Luna, già si pensava ai motori nucleari. Poi si è visto che è talmente complesso, talmente difficile, che è stato un po' messo nel cassetto, ma continuano questo tipo di ricerche e chissà, oggi nessuno più parla di missione umana con un motore nucleare nel 2030, non c'è nessun progetto di questo tipo, però la NASA continua a studiare almeno teoricamente questo tipo di motore. Si sta anche pensando al motore non solo a fissione nucleare, quello delle nostre centrali nucleari, ma addirittura il motore a fusione nucleare, che sarebbe il passo davvero importante per poter andare con l'uomo su Giove nell'arco anche qui di pochi mesi o addirittura di poche settimane. Adesso ci vogliono anni per arrivare a Giove con un motore normale. Ecco, sarebbe bello avere un motore a fusione nucleare anche per lanciare semplicemente delle navicelle. E allora, a differenza di adesso, dove un ricercatore vede nascere il concetto della sua missione quando ha 30 anni e poi quando va in pensione si porta a casa i dati, perché ci vogliono magari 10 anni per andare, 5, 6, 7 anni per rimanere lì, se non 10 anni per rimanere lì, insomma fare tutta una serie di raccolte. Quando ha finito quella missione va in pensione. Ne conosco tanti che con la missione Cassini hanno visto nascere la missione, adesso sono in pensione. La missione Rosetta, quella che ha portato una navicella su una cometa, hanno visto nascere quando avevano 30-40 anni quella missione, poi sono andati in pensione, eccetera eccetera. Allora, invece avere un motore che ci permette di esplorare lo spazio in un mese, cambia totalmente quelli che sono i nostri orizzonti. Bene Luigi, grazie, potremo continuare per ore. Grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie a tutti voi e a presto. Ed è tutto per questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione, continuate a scrivermi per raccontarmi come ascoltate 2024, fate pubblicità al nostro programma di tecnologia, ci risentiamo la prossima settimana via podcast, via super podcast oppure alla radio venerdì tra le 22 e le 23, domenica a partire dalle 13:10. Grazie ancora per la vostra attenzione e alla prossima settimana.